X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Rino Gattuso, 37 anni, calabrese. 10 titoli vinti in 13 stagioni, una Coppa Italia, 2 scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppe italiane, 3 europee, una mondiale per club, più un campionato del mondo con l'Italia nel 2006. Quando si è sentito di peso, ha detto grazie e ha lasciato. Sposato con Monica, ha 2 figli, una femmina e un maschio. Nel 2003 ha creato una onlus Forza Ragazzi per aiutare gli adolescenti calabresi meno fortunati. Alleva molluschi nel suo paese in Calabria e a Gallarate una pescheria. Ha vinto nel 2008 un telegatto come miglior sportivo dell'anno. È stato coinvolto in una vicenda di calcio scommesse dalla quale è uscito immacolato, ma moralmente non totalmente risarcito. Per i tifosi di calcio è un campione in campo e fuori. Per tutti è Ringhio. Allora, Rino Gattuso, Ringhio per tutti. Quasi più famoso per il soprannome che per il nome. Non male, no? Ci diamo del tu, Giovanni? Dai, diamoci del tu. No, non male, eh? E sei più famoso col soprannome. Ma devo dire che Pellegatti ha avuto la brillante idea di indovinare questo. L'ha indovinato, proprio preso. Perché... Senti, ma c'è una caratteristica del carattere che ti viene dall'essere calabrese anche un po'? Ma fa parte del DNA della mia famiglia, sicuramente. Quindi un po' arriva anche di lì. Arriva di lì. Ma tu cos'hai di calabrese che senti veramente, che riconosci come un valore? Io non penso in italiano, penso in calabrese. Dopo mi sforzo a parlare in italiano. Questo ti fa capire che... Questa è la risposta. Questa è la risposta. Senti, anche tu, come quasi tutti i calciatori, e mi spiegherai perché, si è sposato giovanissimo. È un bisogno di ordine, di regole in una vita che si, in qualche modo si brucia in fretta? Ho avuto la fortuna di conoscere Monica all'età di 18 anni a Glasgow. Abbiamo convissuto per tanti anni e... Però sono tanti i calciatori che si sposano molto giovani, ecco, oltre la tua... Però sono tanti che dopo si divorziano, ringraziando Dio. No, infatti volevo sapere, le squadre spingono un po', le società spingono un po' per mettere ordine nella vita? No, secondo me è quando un giocatore vuole capire cosa vuole fare da grande, c'è bisogno di mettere un po' delle regole. Ecco. Penso che la famiglia un po' di responsabilità aiuta, in quel senso te li fa. Ecco, ma le società però preferiscono se sono sposati che non scapoli. Ma sicuramente no. Le società negli anni precedenti, per tanti anni, quando sceglievano, specialmente le grandi squadre, sceglievano sempre degli atleti che facevano una vita notturna abbastanza tranquilla. Ecco, tu sei stato sempre giramondo, ma l'amore del mare ti ha dato questa sensibilità in qualche modo? Ma questo non lo so, però sicuramente mi è sempre piaciuto quello di vedere altri posti, nuove culture, ma sicuramente quando non sto a contatto con il mare mi nervosisco facilmente. Il mare mi lascia tranquillo. Il mare ti rilassa? Sì, molto. Cioè, quando ti nervosisci è brutto, no? Ma divento... Se uno ti è vicino e davanti, soprattutto se gioca contro. Ma divento scontroso. Un po' pericolosetto, ecco. Senti, oggi che è chiuso con la Grecia dove allenavi, cosa fai esattamente adesso? Adesso ho cominciato un corso di inglese, 3-4 giorni a settimana per 3 ore al giorno. Vado in giro per l'Inghilterra, per il mondo, a vedere qualche mio collega se vedo qualcosa di nuovo. Ah, vai in giro, fai un po' l'osservatore, diciamo così. No, vado a vedere i colleghi come lavorano sui campi, vediamo se riusciamo. Chi hai visto ultimamente? Ma sono andato a vedere il Charlton, qui Spark Rangers. Mi piace un po' la mentalità, mi piace sicuramente il calcio inglese. Sì. Il calcio inglese. Ecco, ma è vero che quando sei andato via dalla Grecia, dove allenavi, hai pagato di tasca tua i calciatori che erano senza stipendio da te? Era il periodo di Natale, i giocatori non avevano i soldi per pagare il biglietto e per tornare a casa. Mi è sembrato il minimo da fare. Senti, Totti ha detto che anche il campionato italiano dovrebbe essere sospeso come quello greco perché c'è troppa violenza. Ma non so se... Io penso che non so se la strada perché è giusta. Perché è stato sospeso? Ma è stato sospeso perché oggi la nazione è una nazione che sta attraversando un momento difficilissimo. Cioè, c'è un rapporto tra quello che è capitato al calcio e la situazione della Grecia? Sì, perché le squadre non vogliono pagare gli steward, non vogliono pagare le forze dell'ordine. E la nazione oggi è in difficoltà, invece di mandare 100 carabinieri o poliziotti ne mandano 20 o 30, capisci? E c'è tanta violenza. È normale, è molto più facile fare violenza quando non ci sono persone che te lo impediscono. Senti, dopo parleremo anche dei giorni di gloria, naturalmente. Prima però voglio parlare un momento del dolore. Tu sei stato umiliato dalla violenza dei media che ti hanno aggredito per una falsissima accusa legata al calcio scommesse. Chi ti ha aiutato a resistere? Com'è andato quel giorno? La mia famiglia, il 17 dicembre dell'anno scorso, devo dire che è una data che non dimentico mai. E non ti nascondo che il 17 dicembre di quest'anno ho aperto una bottiglia di champagne e me la sono bevuta io e mia moglie, perché è stata la persona che mi è stata più vicina. Con i figli è stato difficile? Con i figli, il 17 dicembre, il 18 ho dovuto spiegare a mia figlia, che ho già 11 anni, di dire se qualcuno gli diceva qualcosa a scuola, che infatti è dovuto spiegare una cosa che non avevo mai pensato di spiegare. E che non sapevi neanche tu cosa dirgli. Ma non sapevo nemmeno cosa dirgli, e la difficoltà è stata quella, dopo, io, sicuramente. Tu hai detto una cosa quel giorno che mi ha colpito tantissimo: se è vero, io mi ammazzo. Ma io mi davo fuoco, veramente mi davo fuoco, perché ho sempre avuto dei valori nella mia vita. Dopo, tante volte ho sbagliato, ho sempre messo la faccia quando sbagliavo, però è stata un'infamità assurda che veramente l'ho vissuta. Ma infatti la violenza dei mezzi di comunicazione, che non rispettano nessuno quando sentono l'odore del sangue. Che pensieri ti ha suggerito? Cioè, che riflessione hai fatto? Proprio tu sei stato immerso nel mondo dei media, in positivo anche molto. Io non ti nascondo che certe volte volevo parlare con mia moglie in quei 3-4 giorni e uscivo fuori, perché avevo paura che c'erano delle spie, dei microfoni. Credimi, ho portato la macchina a vedere se avevano messo qualcosa anche in macchina, ma l'ho vissuta veramente male, ma di una roba che non sapevo nemmeno io come mi si sono trovato dentro. Quando uno non fa niente, sta peggio degli altri. Guarda, dopo il 22-23 dicembre in pescheria c'è molto movimento in quel periodo là, e questo mi ha colpito questa frase. C'era un vecchietto più... settantenne, mi disse: se è vero che sei colpevole, che hai fatto una cosa così, io non guarderò quei pochi anni che mi mancano della mia vita, non guarderò più una partita di calcio, perché quando ti vedevo uno che non mollava mai, uno vero, uno che mi gasava vederti giocare, e questo mi ha aiutato molto questa roba qua. Però non sono mai stato... Ma c'hai voglia di adesso che è finito di prendere qualche rivincita, qualche vendetta? No, perché non sono né il primo né l'ultimo. No, questo sicuro. Se vai a vedere, in tutti questi 2 anni ho parlato poco, perché non voglio fare la vittima. Non è un problema di vittima. La gente sa chi sono, quello che faccio, quello che ho fatto, e voglio fare il mio mestiere, il nuovo mestiere. E parlare, secondo me, non serve a nulla. Senti, per fare questa intervista, io ho parlato con Adriano Gagliani per cercare di sapere qualcosa di più, di particolare, perché lui ti conosce forse come pochi. Ecco, mi ha detto tante cose belle, però mi ha detto la cosa più difficile con Rino è sempre stata quella di convincerlo a non smettere di giocare quando perdeva una partita importante, soprattutto a Istanbul nel 2005, quando abbiamo perso quella partita impossibile da perdere. Il mio problema non era Berlusconi, la sconfitta, era Gattuso. Non sapevo cosa dirgli, perché lui voleva mollare. Io 2 o 3 giorni dopo sono stato chiuso per 7 ore, 8 ore nella sala trofei in via Turati, perché mi ha chiuso veramente a chiave, perché volevo lasciare il Milan, ma perché non avevo più... Quando perdevo, siccome sono sempre stato tifoso milanista, e per me in 14 anni di Milan mi sentivo capitano, presidente, allenatore, e mi sentivo tutto. Ero il Milan, perché quella maglietta ce l'avevo, era la mia seconda pelle. Certo. E quindi ti sentivi in colpa quel giorno? Ma non solo quel giorno, perché... Tutte le volte che perdevi. No, è normale. Quando arrivavano delle sconfitte importanti, devo dire che le vivevo veramente male. Ecco, ma invece quando è che ne hai vissuta una benissimo? Più bella? No, dimmi là, perché me le puoi dire 100. La più bella è la prima Champions League contro la Juventus, semifinale con l'Inter e finale contro la Juventus, milanista maledetto, io sono juventino. Per un milanista maledetto penso che è stata la vittoria più bella. Senti, Gagliani cos'è stato per te? in tutti questi anni? Magagliani è stato più di un amministratore delegato, perché era uno che discutavamo tanto, tante volte quando sbagliavo mi rimproverava davvero come non come un dirigente ma come un papà. E in 14 anni devo dire che è strano per un giocatore, non abbiamo mai discussi per problemi economici. Penso che la stima fa parte era sufficiente. Sì. Senti, Berlusconi? Berlusconi, ricordo, c'è un'immagine bellissima nel 2003, tre o quattro ore prima della finale, ogni giocatore doveva passare dalla sua camera e in 15 minuti di chiacchierate devo dire che è stato come un Viagra. Sapeva caricare, sì, un Viagra. Un carisma, ti dava una voglia. Ma era un presidente che voleva decidere la squadra o no? Guarda, credimi, in 14 anni non ho mai visto scene strane all'interno. Ma tra Gagliani e Berlusconi chi ci capisce di più di calcio, secondo te? Ma secondo me più Gagliani. Più Gagliani. Sì. Senti, ma tu avresti voluto essere scelto al posto di Inzaghi, per esempio? È una cosa che ti sarebbe piaciuta? No, perché non contro di lui. No, ma lo dimostra anche la scelta, la strada che sto facendo. Preferisco fare esperienza piano piano. Ecco, ma infatti ti volevo chiedere questo: ma secondo te, come allenatore, si possono saltare le tappe? Oppure poi alla fine... No, perché io dico sempre che l'esperienza non va al supermercato e dici dammi 5 ore di esperienza. L'esperienza bisogna farlo sul campo di battaglia. E oggi è normale. Noi siamo stati grandissimi giocatori, calciatori, però fare allenatore e giocare a calcio sono due robe totalmente diverse. Ecco, che cosa deve saper fare un allenatore per essere un grande allenatore? Tu ne hai avuti tanti. Ma tutto. Deve avere carisma, deve saper parlare ai giocatori, devi capire chi hai di fronte e trovare sempre le parole giuste per caricare. Sai chi devi bastonare? Perché oggi a chi con non... le panchine lunghe è difficile gestire i calciatori. No, ma è difficile gestire uno spogliatoio di 30 persone. Dopo appunto. Rappresenti la società in quel momento. Sei quello che devi far rispettare le regole, i risultati devono arrivare perché è il primo che paga l'allenatore, ma diciamo che è una roba totalmente diversa. Sì, ma devono tutti combattere con i presidenti che vogliono fare la squadra, perché più o meno capita un po' così sempre. Ma penso a Palermo, a te a Palermo con Zamparini è stata un'avventura incredibile, voleva comandare sempre lui, no? E vuole avere sempre ragione lui, quando trovi una persona che vuole su avere tutto? Sempre ragione. Ma lo sapevo cosa andavi incontro. Ah, però... e perché hai detto sì? Ma perché a 36 anni una piazza come Palermo, una città come Palermo, è stata, per me non potevo rinunciare. Però è un errore. Oggi visto adesso è un errore o no? Io lo rifarei. Lo rifaresti? Ma... Ecco, Zamparini ha detto Gattuso è stato un mio errore, penso di avergli fatto del male. Poi ha anche detto che come uomo fa innamorare, però ti ha fatto del male? Ma secondo me no, perché mi ha dato la possibilità, ho accumulato esperienza, ho avuto a che fare con un presidente difficile, complicato, ma devo dire che tutto fa brodo. Insomma, un uomo complesso però Zamparini. Un uomo molto astuto, una persona molto intelligente, è uno che quando parla non dice fregnacce, è uno che... È normale, quando si parla di calcio, lui dal lunedì al venerdì è una persona veramente perfetta, dal venerdì a domenica, sì, divento un mostro, però devo dire che... Quanti l'ha cambiati? 35, 40? Ma di più, penso, però lo porto nel mio cuore perché è una persona molto in campo. Però adesso il Palermo va... Palermo va a forza di vendere e comprare vuol dire che ci capisce. Ma lui ne capisce di calcio. Eri tu che non ci capivi. Ma forse sono stato io che non capivo abbastanza, sicuramente. Senti, ma dal campo alla panchina è veramente molto complicato. No, sono due robe totalmente diverse. Due mestieri diversi. C'entra il pallone diversi. E basta. Ma c'entra il pallone, lo spogliatoio, il contesto è uguale, ma dopo il ruolo è talmente c'è una grandissima differenza. Senti, ma da 3 anni non sei più Milanello. Ti manca Milanello? Mi manca Milanello, la struttura, mi manca il Milan, ma mi manca il Milan, però non mi manca il calcio giocato. No. Perché quando hai dato vado, quello che dovevi dare, sì. Anche di più di quello che potevo dare, perché non c'ho nessun rammarico. Quando mi guardo indietro, Ma pensi di aver fatto più di quello che immaginavi? Ma nettamente. Nettamente. Ma quando hai scoperto che potevi giocare a pallone? Ma se pensi che ho lasciato casa all'età di 12 anni per andare, Gaucci mi comprò dalla squadra del mio paese. Sono stato in un collegio per fino a 17 anni e mezzo, capisci che il calcio è stata la mia vita. Certo. Ma anche ma se mi davano un quarto. Tu come ti sentivi? Un campione? No, io mi sentivo uno che doveva arrivare a tutti i costi. Ecco. E ci ho messo tutto me stesso. Mm. Ma quando vedo adesso i soldi che guadagno andare in calcio. Ma anche un quarto, anche un decimo, io giocavo uguale, nel senso. per fortuna che non gliel'hai detto. No, ma per fortuna non gliel'ho detto. Per fortuna che arrivavano tanti stranieri e quando pagavano bene loro dovevano pagarmi anche me. Certo, senti, ma dice a ricasco per forza. Certo. Senti, ma tu hai visto tanti ambienti, ma che cosa ha il Milan di particolare, se ha qualcosa di particolare? Ma giocare al Milan per 14 anni ho fatto un altro sport, non ho fatto calcio. Perché dovevi pensare solo a giocare bene. Tutto il resto lo facevano gli altri. Ma veramente, un'organizzazione incredibile a 360 gradi. Tu hai detto che hai smesso perché ti sentivi a un certo punto un peso. Ma un peso di chi? No, io ho smesso per la mia malattia. Io per il male che hai avuto all'occhio. Male agli occhi, la mia astenia. Ma cosa è capitato esattamente? È capitato che mi è arrivata la mia astenia oculare. E che cosa vuol dire? Prende i muscoli degli occhi e per 8-9 mesi vedevo un oggetto in 5 posizioni diverse. Ed era impossibile giocare. Mi è successo. Anche vivere era complicato. No, non potevo guidare, non potevo portare i miei figli a scuola. C'è gente che per tanti anni sta a letto perché crea veramente delle difficoltà pazzesche. E dopo, con la mia caparbietà, con la mia forza, ho giocato ancora un anno a Sion, però facevo uso di cortisone. Devo dire che i battiti cardiaci si andavano molto alti. Troppo, era pericoloso. Sì. Adesso va bene, adesso stai bene? Sì, faccio la cura di cortisone, 5 mg però al giorno. Però vedi bene? Sì, vedo bene, molto bene. Senti, ma è stato Allegri però che a un certo punto non ti voleva più? No, guarda, la società mi ha proposto di rimanere nello spogliatoio, di lavorare col Milan, però c'avevo ancora il fuoco dentro, volevo ancora giocare. Ed è stato. E Allegri? Ma con Max ci ho giocato anche, a Perugia, è stato un mio compagno di squadra, abbiamo vinto uno scudetto insieme, è normale che per quell'anno là per 9 mesi. È difficile aver giocato col proprio allenatore. No. Ma mi è successo anche a me di allenare ragazzi che ci giocavo contro, capisci? Importante è capire, rispettare i ruoli e dire sempre le cose come stanno. Senti, ma cos'è la cosa più difficile da capire e da accettare per uno come te, campione del mondo, 10 titoli, l'abbiamo detto, di interesse. Quando smetti, cos'è la cosa più difficile da accettare? Quando è che ti accorgi che ha cambiato il mondo? Quando cominci a fare la pancetta se non vai a correre, quando cominci a scriverti in palestra e devi pagare la palestra, invece prima ti pagavano. Per andare in palestra. E questo veramente è quello che dico certe volte oggi ai miei giocatori, e dico, guarda che quando smette dovete pagare per fare quello che state facendo. Certo. E questo. E dopo l'adrenalina che ti dà la partita. Sì. L'adrenalina della partita è qualcosa di insostituibile. Ma ci sono tanti compagni con i quali sei rimasto amici? Ma molto, molti compagni, da Maldini, Annesta, Shevchenko. Ma devo dire che il gruppo. Ma secondo te Maldini perché non è mai riuscito ad avere un ruolo nel Milan, una bandiera come lui? Ma perché Paolo è uno che ne sa, ha vissuto sempre da protagonista e sicuramente vuole fare il protagonista. E oggi non so cosa gli è stato Gagliani proposto. Ma tu Gagliani e Barbara come li vedi insieme? Ma io sono stato abituato che c'era sempre una testa che comandava. In un'azienda ci vuole sempre una testa che comanda. Ma i più amici fuori dal campo chi sono? Maldini, questi? Shevchenko? Ma devo dire che ho un'amicizia con Abbiati da tanti anni. E devo dire che lo considero veramente un amico vero. Sì. Senti, tu hai vissuto la stagione d'oro del calcio, non c'è dubbio, del calcio italiano, diciamo. Adesso sembra abbastanza tutto finito questo mondo, in quel modo. Perché secondo te? come fa ad andare bene il calcio? Cioè, dimmi un'azienda. Dici, è come il paese, come in Grecia. Ma il calcio rispecchia il paese. Cioè, è normale che quando le aziende producevano, quando l'azienda andavano bene, i presidenti erano ricchi e mettevano soldi. Oggi c'è qualche presidente che ha lo stipendio per gestire una squadra. Capisci che il mondo è cambiato. Ma non lo so, però. Sì, che lo sai. Uno come te che non lo dice è strano. Senti, ma oramai dicono che il calcio italiano è vicino alla bancarotta dal punto di vista economico. Ma se penso che oggi fra Sky e Infront chiudono i rubinetti, è finita. Si ricomincia dai ragazzini? Ma si ricomincia da calcio amatoriale. Senti, noi in un certo senso abbiamo vissuto un calcio da debito pubblico, cioè abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità calcisticamente, cioè spendendo più di quello che potevamo. Ma penso non solo le squadre italiane, ma quasi la vita proprio. È la vita, ma è come le persone. Per 30 anni fa, 40 anni fa volevi comprare una casa e non c'avevi soldi, non la compravi, volevi comprare un telefonino, non lo compravi. Oggi ci sono finanziamenti e la gente si indebita, e penso che il calcio ha fatto lo stesso percorso. Insomma, in Grecia è andata così, poi in fondo l'esperienza della Grecia è utile dal punto di vista vedere il rapporto tra il calcio e la società. Ma è stato importante perché per 5 mesi ho fatto l'allenatore, il presidente, il manager, ho fatto di tutto. E penso che questo. Quello vale molto. C'è tanta gente che fa esperienza, va a fare dei corsi di aggiornamento e paga, e io l'ho pagata stando in trincea e sul campo. È quello, si fa la formazione migliore poi alla fine. Ma io penso che per fare esperienza. Devi toccare con mano quello che fai. Ma ti aspettavi una vicenda come quella di Parma? Non sono scandalizzato. No, perché? Non sono scandalizzato perché il problema Parma non viene fuori in questi giorni, se ne parla in questi giorni, sì. Però chi doveva controllare dove è stato tutto questo tempo? Quando hanno messo sotto contratto 250 giocatori. Chi doveva controllare? Chi doveva controllare? Devono controllare la federazione, la Covisoc, tutti gli enti che hanno delle responsabilità. Non l'hanno fatto? E perché non l'hanno fatto? E perché non l'hanno fatto? Me lo chiedo anch'io. Ma io lo chiedo a te, che lo sai più di me. No, ma capisci che faccio fatica, perché oggi secondo me come un'azienda. Ma ce n'è tanta secondo te di corruzione nel calcio oppure no? No, non c'è corruzione nel calcio. Nel calcio c'è gente che rispetta le regole e c'è gente che non le rispetta. E secondo me la federazione, il gioco calcio deve dare degli input importanti, deve controllare, deve essere al di sopra di tutto. E questa federazione è una federazione che è adatta per fare questa cosa oppure no? C'è stata la possibilità di cambiare con gente nuova, con gente fresca come Albertini, non è andata così, abbiamo perso una grande occasione secondo me. Senti, e da dove si ricomincia allora? Non so da dove si ricomincia, si ricomincia dalle cose vecchie, che non so dove andremo a finire, e questo è un motivo di preoccupazione. Senti, ancora una cosa, ma tu vorrai esserci in questo mondo che ricomincia del calcio? Io speri voglio di esserci o no? Ma io voglio fare un calcio perché voglio lavorare, perché amo questo mestiere. Oggi non ti nego che non lo faccio per i soldi, non certo. Lo faccio per la passione, per le bidine, per la passione. E la strada è quella sempre di andare all'estero, perché si respira aria giusta, ci sono stadi nuovi, siamo indietro stadi su pieni tutto. E penso che oggi una cosa da dove ripartire sicuramente sono gli stadi, e che un genitore se vuole portare i figli lo può fare. Ma solo a Torino è così per adesso. Ma non è un caso che la Juve oggi ha i conti a posto, ha lo stadio sempre pieno e fa risultati. E quindi Inghilterra nel futuro di Gattuso? Dappertutto, ma non sono uno. C'è solo un problema, che mia moglie mi rompe le scatole perché giustamente i bambini, cambiando spesso a livello scolastico, hanno delle difficoltà. Però c'hanno anche dei vantaggi, però conoscono tanti mondi. La penso come te. Come i figli degli ambasciatori. La penso come te, e un giorno sicuramente ci ringrazieranno. Va bene. Grazie a te, Rino. Giovanni, grazie, un abbraccio mille. Grande. Grazie. Mix 24. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più, quando siamo alla fine di un amore soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Splendido, È un lunedì più che splendido, perché preannuncia, e lo so che non ci crederete, soprattutto Mario non ci crederà, però stamattina Artemide Fesina in testa e con lei tutte le madri di Mater, oltretutto una mostra molto bella adesso a Parma, col bel sogno atteso da tutti, dopo il freddo, dopo la poca luce, dopo i giorni tutti corti, questo bel sogno in metropolitana a caricare i vagoni dei treni sotterranei di profumi, solo profumi oggi. E dunque la promessa delle margherite da campo, poi i papaveri, quindi le rose selvatiche, non... E in verità in un vagone speciale c'erano le rondini pronte a graffiare di allegria il cielo, e in un altro... Canzone di Don Bachi, dove il più bel sogno è tutto per Artemide Fesina. Amore, soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Poesia, poesia, poesia. Mario, le sempre bolle poetiche, noi sbagliamo anche loro? Sì, abbastanza, ma non... Bravini questi, Mazza. Un pezzo che si chiama Appresso, molto bello. E brevissimo assunto, che cosa succede? La bussola del giorno. Oggi comincia gli acquisti di titoli di Stato, la BCE, vediamo che cosa succede, ci vorranno un po' di giorni per capire. Le aspettative sono alte, avete molto visto alte, i mercati, sì, in questi giorni. Diciamocela tutta, perché altrimenti qua qualcuno comincia a saltare sul carro della ripresa. La ripresa è merito per ora di Mario Draghi e degli emiri che hanno abbassato del 50% le quotazioni del petrolio. Tutto il resto si vedrà. Daremo il merito se c'è, se non c'è è inutile metterselo, no, appuntarsi la stella. Medagliette inutili. Niente medagliette inutili, signori del governo e dell'opposizione. Salamino. E poi dice che era quello il cavaliere. Allora, un solo cavaliere per un solo cavallo, annuncia Bei oggi su Repubblica. E di quale cavallo si tratta? Ma naturalmente il cavallo di Viale Mazzini. Allora, è successo questo nottetempo. Silvio Berlusconi, che è il presidente del Consiglio, ha nominato un unico amministratore delegato con poteri ampi nella RAI. Ed è Denis Verdini. Davvero? Sì, perché vedete com'è il marchingegno. La governance della RAI, voluta da Berlusconi, avrà dinamiche decisionali proprie di un'azienda privata. Alle Camere, invece, dove il PDL, cioè il Popolo delle Libertà, ha una larga maggioranza, spetta il controllo dell'operato di questo amministratore unico. Sì, sì, sì, l'amministratore, ossia Verdini. Ma si può fare. Ma si può fare, certo, lo ha stabilito il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha stabilito che l'amministratore, cioè Denis Verdini, deve poter decidere come fanno i manager. Ora è successo che il giornale Libero e, sebbene in chiave frondista, il Foglio, oggi hanno illustrato questo piano di Berlusconi per la televisione, ma tutti i giornali liberi, tutti si stanno mobilitando contro questa inaudita decisione di Berlusconi che apre inquietanti scenari. E sono questi. Allora, Fabrizio Del Noce firma la Striscia quotidiana dopo il TG1, prendendo il posto che fu di Enzo Biagi. Umberto Smaila va al posto di Fabio Fazio e Iva Zanicchi conduce la trasmissione di Milena Gabanelli. Ma si può fare? Si può fare, l'ha fatto, cioè, sui giornali di oggi, leggilo, è risaputo. Allora, la protesta però non si fa attendere. Giro, giro, tondo. Ed è Moretti, Nanni Moretti, che ha già mobilitato i girotondi. Lella Costa si è incatenata all'ingresso del teatro Il Piccolo di Milano. E Claudio Amendola invece... Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo. Claudio di Amendola sta facendo scioperare i Cesaroni e no. Con loro nel cast dei Cesaroni sono entrati Barbara Spinelli, Curzio Maltese, c'è pure Tsipras, insomma, l'Italia è messa a ferro e fuoco e anche, ascoltate, Papa Francesco per protesta ha fatto avvolgere di garze tutte le campane in segno di protesta. Avete visto che cosa succede quando presidente del Consiglio c'è Silvio Berlusconi e cosa ne fa dell'azienda televisiva di Stato? Vabbè, ma si può fare. Sì, però credo che non sia Berlusconi quello no, che perché? Abbia fatto tutto. Ah, no? No. E chi è? No, ah, è Matteo Renzi. Ah, no. Ove si allora dimostra, tutto è permesso. Ove si dimostra che tutto da sinistra si può fare. Fritte siamo. Fritti. Luigi Vicinanza, sì, direttore, nuovo direttore dell'Espresso. Bravo collega. Ha cambiato il giornale. Dopo 60 anni cambia pelle. Perché dopo 60 anni un nuovo Espresso? Perché l'Espresso si rinnova, ma sostanzialmente resta se stesso, perché è il primo settimanale dell'era post-internettiana. Cambiano le abitudini dei lettori, dobbiamo cambiare anche noi per essere più vicini ai nostri lettori. Dunque, ma possono sopravvivere dei news magazine come l'Espresso? Qual è la formula della sopravvivenza? Credo che sia tanta, tanta buona informazione, tante inchieste, tanto racconto dell'Italia profonda, tante notizie in esclusiva. Noi siamo travolti a volte dal flusso dell'informazione. Appunto. C'è bisogno di momenti in cui il cittadino trovi un momento di riflessione. E quindi noi abbiamo l'ambizione di fare questo. E quindi l'Espresso di Vicinanza dopo 60 anni vuole garantire profondità, è questo? Esatto, questa è proprio la formula. Sara Tardelli con la Via Rosa. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Aiuto! Oggi Repubblica parla del problema dei circhi italiani che godono del sostegno dei finanziamenti pubblici, anche se magari sono indagati per maltrattamento di animali. Ma questa norma è degli anni 60, ma il punto qual è? Non è tanto quello di fare norme più severe, altre leggi o fare più controlli. Il punto è scegliere una volta per tutte se vogliamo vedere e finanziare con i soldi pubblici quei circhi che sono inevitabilmente crudeli nei confronti degli animali selvatici. Quei circhi che usano gli elefanti come pagliacci, che sviliscono tigri feroci a gattini casalinghi. E allora come fare? Dobbiamo scendere nelle piazze italiane il 14 e il 15 marzo per firmare la petizione della LAV che chiede appunto di abolire ogni sorta di finanziamento pubblico ai circhi italiani. Mix 24. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun. Vai. Snoop Dogg, allora questo è un bellissimo pezzo, anche molto divertente. 30 milioni sono i soldi in euro, in sterline, vedete voi, il cambio tanto stiamo là più o meno. Per fare che cosa? Il consulente insieme al suo team degli Emirati Arabi Uniti. Tutto bene, Blair è diventato milionario con questo, c'è solo un piccolo particolare, lui è anche inviato speciale per il Medio Oriente. Non c'è un piccolo conflitto di interesse. No, ma giusto un pelino. Un pelino. E tocca ad Alessandra Fiori col suo lunedì libro. E se un vicequestore della Roma Trasteverina si ritrovasse ad affrontare la 'Ndrangheta sulle montagne della Val d'Aosta? È maggio e il cielo è finalmente terzo. Il vicequestore Rocco Schiavone, protagonista di Non è stagione di Antonio Manzini, osserva la neve sciogliersi tra gli odiati monti sui quali è stato trasferito di forza, sorprendendosi a pensare che per una volta la vita poteva anche sorridere. Poi uno strano incidente automobilistico e la scomparsa della rampolla di un'importante famiglia che però non ne denuncia la scomparsa. Quale segreto nascondono quei ricchi industriali? Cosa si cela dietro la facciata scintillante di quel mondo privilegiato? In una osta non meno cruda della Roma della Banda della Magliana, il vicequestore Schiavone, scontroso e malinconico, irriverente e romantico, si trova a indagare in un'area grigia, dove gli affari si mescolano a racket e gli interessi delle banche a quelli della criminalità organizzata. Intanto dal passato del vicequestore riaffiora uno spettro, un'ombra di cui sentire l'odore o l'assenza, a seconda, ma sempre pronto a ricordargli, insieme alla neve che ha ripreso a cadere, che per lui l'inverno non è destinato a finire. Non è stagione, terzo romanzo sulle indagini del vicequestore creato da Antonio Manzini, pubblicato da Sellerio. Brava Alessandra Fiori, Salamino! Salamini di primarie. Vincenzo De Luca, trionfatore alle primarie del Partito Democratico in Campania, adesso in corsa quindi per diventare presidente della regione, è uno che si può candidare, ma come spiega De Marco oggi sul Corriere, è eleggibile ma inadatta a governare perché c'è la legge Severino. Ed è un bellissimo inguacchio che ben si arronza col destino del renzismo al sud. Per non dire di quello che succede nel regno delle due Sicilie, dove, caro Giovanni, caro Mario, i piritolli hanno così hanno organizzato il cosiddetto welcome party. Ah, si dice così, giusto? Good. Welcome party. Hanno fatto very, welcome very well. Party. Hanno accolto i nuovi arrivati. L'hanno fatto in Sicilia ed è stato più che un welcome, è come si può dire, un washing party, un lavaggio. Un washing party, sì. Sì, perché il Partito Democratico di Matteo Renzi è la più efficiente delle lavatrici, tutta la minuzzaglia di cui è inutile dare nome, ex MPA, ex democristiani, insomma, tutti sono pronti a dare a Matteo Renzi quel che fu il 61-0 di Berlusconi a suo tempo. Capo. Tutti con Matteo Renzi, tutti mala razza. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori. Da oggi, da oggi fino a venerdì, proviamo a raccontare la storia dell'economia del mondo a partire dalla prima guerra mondiale fino ai giorni nostri. Come, Marina, Marina Milone? È una bella sfida, un viaggio nell'economia che facciamo anche grazie a Fabrizio Galimberti, economista del Sole 24 Ore, che ci spiega molte cose interessanti confrontando passato e presente. Il titolo della prima puntata di oggi è Idee che governano il mondo, cioè quanto le idee di due grandi economisti come Keynes e von Hayek hanno influenzato i governi dei popoli, un dibattito che dura ancora oggi. Bene. A dopo. Tutta la settimana. Mario, ancora una bolla? Vai. Senti qua. Michael Jackson. Il regia balla. Vai, sì, sì. Beh, senti. Love never felt so good. Vabbè, allora, cioè, abbiamo parlato. Ho fatto solo un piccolo. Solo un piccolo. Ma è stato per... registrato. Vabbè, è stato registrato. Poi lo mandiamo in onda. Stai tranquillo. Non mi convincerete mai a cantare. Vai. Allora, anche se mi piace. Occhio all'orologio, ragazzi. La vera economia si muove sul digitale. È il giorno del watch o dello smartwatch di Apple. Si annunciano sfracelli sul mercato. Un mercato che è in fase di fortissima accelerazione. Si realizzerà anche una versione in oro. Segnalo, giusto per completezza di cronaca, l'avevamo preannunciato, che le cose invece per Tesla non vanno benissimo, il prezzo del petrolio si è abbassato, l'auto elettrica ha un po' meno, diciamo, appeal, caro buttafuoco, licenziano 200 persone su 600. Ma ci sono, c'è un libro sugli orologi, c'è qualcosa? C'è una cosa che domani ne parliamo bene, sugli orologi e del potere in Italia. Domani ne parliamo e finiamo con Innocenti invasioni di Battisti. Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino, qualcuno è già nell'aria, qualcuno sorriso in poi champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino a qualcuno. Stasera arrivo.